che bello, oi che bello, piove. Beh, venerdì, del resto, vigilia di weekend. E che vogliamo aspettare? Beh, magari aspettiamo che arrivi un weekend per ancora estate, a quanto pare. Gente narra, sia ancora estate. 15 settembre, anche se gli appuntamenti che andiamo a presentare alla corte dell'abbadessa saranno con inizio in data ufficiale. Adesso, sempre qual è la data ufficiale, con precisione, non sono un astronomo o uno studioso di queste entità, per cui insomma non sarò precisissimo, ma per me l'inizio dell'autunno è il 21 settembre e alla corte dell'abbadessa i 5 appuntamenti avranno inizio proprio giovedì 21 settembre. La corte dell'abbadessa è immersa tra le verdi colline bolognesi nel scenario che è veramente molto bello del Parco dei Gessi, sui calanchi del Parco dei Gessi, una filosofia che viene comunicata alle spettatrici, agli spettatori, per quanto riguarda questi diversificati appuntamento, è in pieno accordo con la natura, come già vi ho anticipato per quanto riguarda questo appuntamento in scena. Musica, teatro, incontri, letteratura, insomma, nel contesto della corte dell'abbadessa con le sue bellezze naturali e non solo, sarà uno sfondo e un protagonista assoluto di questi appuntamenti autunnali. Ne abbiamo parlato con Antonella Fambrini per appunto identificare in questi spazi le motivazioni di appuntamento per un pubblico quanto mai attento e curioso. Sentiamo le sue parole. Certamente, allora proprio partendo da questo scenario che non farà solo da sfondo ma sarà l'assoluto protagonista di questi nostri prossimi appuntamenti, ci siamo fatti ispirare dalla natura, dove qui vive libera in armonia sia con le persone, no? Ci sono coltivazioni biologiche, animali allevati in libertà, diventata anche fattoria didattica, e quindi insomma la natura ci ha ispirato nel concepire questi eventi, in quanto ogni, diciamo, elemento che contiene vive libero, vive dando i suoi frutti pur nella sua diversità, no? Quindi abbiamo pensato, perché non coltivare anche elementi e offrire eventi che creino insieme cultura, aggregazione, appunto divertimento, e valorizzino anche questo bellissimo territorio. Ho letto di un inizio, ho parlato dell'autunno, che è giovedì 21 settembre, appunto. Esatto, proprio la data. Sì, una data speciale soprattutto perché apre questo ciclo di eventi con una scrittrice giornalista che è Alessandra Beltrame, molto conosciuta per il suo primo libro che ha scritto, Io cammino da sola, che ha percorso da sola la via Francigena e l'ha raccontato in questo suo fortunato libro, e da noi verrà a parlare sia di cammino tra la natura, di viandanza, di cammino appunto fatto a passo lento, a passo del respiro, e ci parlerà anche del suo ultimo libro, Il viaggio delle donne. E guarda caso, questa rassegna di eventi siamo praticamente tutte donne come protagoniste, quindi viene anche un po' a collegare come filo rosso, benché ognuna presenti le sue peculiarità, insomma sarà sicuramente un ciclo particolare. Pure io, sai Sergio, grazie per questa co-conduzione, grazie Sergio, tra l'altro, come ho detto, per quanto riguarda la nostra redazione culturale come inviato esterno, fondamentale la presenza di Sergio Fanti, che giustamente scrive: oggi non hai ancora detto quanto mai. È vero, sai che registrando e poi ascoltando il podcast, ma quante volte dico quanto mai? No, sto migliorando, quindi Sergio, prendo come un incoraggiamento, un complimento, grazie, buona giornata.

una sorpresa, è stata una sorpresa l'arrivo di questo brano. Io ringrazio tantissimo la corte dell'abbadessa, l'organista bolognese che abbiamo sentito in anteprima, sarà nel contesto appunto di questa rassegna, esattamente sabato 14 ottobre alle ore 9. Elisa Teglia accompagna all'ascolto e alla scoperta. Ne abbiamo avuto una piccola pillola nell'interpretazione di Beethoven alla scoperta dell'organo dell'abbazia di Santa Cecilia della Croara, che non sapevo, magari anche tante e tanti di voi non sapevano, che è stato proclamato patrimonio UNESCO nel 2005. Elisa, come già anticipato, Antonella Fambrini è organista internazionale e concertista con fervente attività sia in Italia che all'estero, ed è un'emozione attraverso queste melodie nel contesto appena descritto, poi allo strumento particolare che ne evidenzia ulteriormente l'aspetto emotivo. A seguire tutti insieme una domenica, anzi scusate, un sabato, quindi già weekend, sabato di metà ottobre, sabato 14 ottobre, la possibilità di condividere assieme così una merenda, per cui l'aspetto enogastronomico, l'attenzione per l'arte, la musica, la letteratura, e sabato 21 ottobre alle 19:30 l'arte, arte in tavola, il capolavoro di Carracci con I mangiatori di fagioli. E nello stesso tempo, visto che abbiamo parlato di a ridosso del pranzo per il sabato 14 ottobre, quello successivo il 21, un'attenzione per una cena a buffet con questo capolavoro dei Carracci, Mangiatori di fagioli, che verrà illustrato. Paolo ne è un appassionato. Buongiorno a te, Paolo. Oh, che meraviglia, scrive. Adoro la musica di organo a canne, più spesso, please. Sarà mia cura. Grazie intanto. Andiamo verso la conclusione con l'appuntamento mattutino domenica 29 ottobre, e in questo caso parleremo di un'astronomia che si riflette appunto anche su questi immensi spazi verdi della corte dell'abbadessa. Prendiamo la conversazione proprio da questa astronomia di cielo stellato sulla Terra. Di che si tratta? Sì, esatto, sarà un evento appunto per concludere in bellezza domenica 29 ottobre dalle ore 9:30 del mattino. Avremo Beatrice Calia, che è l'erbana, esperta di erbe, che ci parlerà appunto erbe terrestri e stelle celesti, farà anche dei collegamenti con l'astronomia, l'astrologia, e ci farà fare una passeggiata esplorativa nel riconoscere le erbe selvatiche edibili presenti appunto in fattoria. E poi le degusteremo tutti assieme in un brunch al quale arriveremo dopo un piccolo laboratorio cuciniero sempre da lei condotto. Diamo qualche indicazione logistica anche? Sì, esatto. Allora, gli eventi si svolgeranno alla Corte dell'Abbadessa, che è in via della Croara 7/1 nel comune di San Lazzaro di Savena. Tra l'altro, alla fine di ogni evento, che prima non ho detto, ci sarà, nel caso della presentazione del libro, ci sarà una pericena, poi delle merende, e poi appunto ci sarà nelle ultime due una cena buffet e appunto un brunch per concludere. Il programma lo possiamo consultare anche su piattaforme online. Corte della Badessa Farm.it, e poi anche i nostri social comunque saranno puntuali nell'illustrare ogni volta i nostri eventi singoli, così ognuno si prepara per la settimana. Certo, io ti ringrazio tantissimo, abbiamo detto tutto, tra l'altro complimenti perché è un panorama originale e quanto mai esteso. Ti auguro una buona giornata e ci diamo appuntamento alla corte dell'abbadessa. Si parte primo giorno d'autunno, che è giovedì 21 settembre. Sì, alle ore 19 vi aspettiamo numerosi e a braccia aperte. Grazie, ciao. Grazie, ciao. concerto quanto mai esteso. Ho rovinato tutto sul finale. Ma era indifferita, quindi dai, è perdonabile. Mi autoassolvo. Io vi auguro uno splendido weekend. E che bello, è la pioggerellina contro i vetri. La pioggia, che schifo. E invece io vi auguro un weekend da spiaggia. Io vi auguro un weekend al mare, perché non ci basta mai. E quindi un buonissimo metà settembre. E con l'augurio e un grande abbraccio di un buon fine settimana, io vi ringrazio per l'attenzione di questa quanto mai estesa puntata del Breakfast Club in scena, e vi do appuntamento ovviamente a lunedì con i magazine a colazione alle ore 7 su Radio Città Fujiko e dal vostro William Piana. Ciao a tutte, ciao a tutti.